I racconti di Cristina Cattaneo, medico legale. Gli innocenti. Gli innocenti. Magari mentre raccogli le prove su una donna violentata, comunque ti sembra di dare, a volte no, ma a volte ti sembra di dare un minimo di conforto, non so, di tranquillità. Succede di illudersi di fare un lavoro che possa non solo aiutare a fare giustizia, ma anche a proteggere la società nel momento in cui si contribuisce in qualche modo a mettere in carcere per un po' di tempo chi ha commesso un delitto efferato. Questo sentimento è ancora più forte quando le vittime sono gli innocenti. Secondo le statistiche americane ed europee, i bambini maltrattati fisicamente sono molto più numerosi di quelli che hanno subito altri tipi di abuso. Volti e piccoli corpi con ecchimosi, bruciature, cicatrici, fratture ossee. Questi sono i casi più fortunati. I peggiori finiscono sul tavolo anatomico. Intanto l'autopsia sul corpo di Alessandro ha chiarito che non ci sono segni di fratture o slogature. La pista resta quella dell'incidente. Il bambino che era solo in casa avrebbe preso la pistola del padre. Il piccolo di 8 mesi morto in seguito allo sfondamento del cranio. È ucciso la notte del 15 marzo in un lussuoso residence di Nancy. Il problema dei bambini maltrattati è uno dei problemi più spinosi per il medico legale. Per fortuna capita raramente di incontrare bambini così maltrattati da vederli in sala autoptica. Stanno emergendo sempre di più casi di maltrattamento fisico in famiglia, anche se molto, molto meno rispetto agli altri paesi. Il problema è molto difficile da affrontare anche da un punto di vista tecnico, perché spesso bisogna capire effettivamente se l'evento che ha portato alla lesione, alla frattura, è accidentale o volontario, e questo è estremamente difficile. Poi bisogna capire se è ripetuta o no. Si cerca di capire magari dai colori dei lividi se i lividi possono essere stati prodotti in momenti diversi e quindi sono il seguito di atti ripetuti, oppure si cerca di capire se le fratture che si vedono sulle coste, sui femori, sulle ossa in genere sono tutte attribuibili allo stesso momento, vedi la caduta dalle scale che è stata raccontata dai genitori, oppure se sono calli ossei di momenti diversi e quindi gli episodi traumatici sono più di uno e quindi sono in contrasto con quello che è il racconto dei genitori. Può essere che sia molto difficile distinguere il momento di produzione di due calli ossei diversi e che sia difficile capire se due calli ossei sono intervallati da 5 giorni, da 10, da 2 settimane. Quindi esistono dei casi franchi, molto semplici, casi di emorragie molto grossolane, evidenti, che sono chiaramente seguito di un episodio traumatico, di percosse. Esistono casi in cui ci sono fratture ossee multiple di diversi distretti, anche qui la situazione è abbastanza chiara. E esistono casi invece molto più subdoli, molto più pericolosi da gestire da un punto di vista legale, in cui bisogna stare attenti. Addirittura ci sono bambini che soffrono di malattie che fanno sì che le loro ossa siano più gracili, si rompono, si fratturano più facilmente, e la presenza di calli ossei multipli in zone del corpo diverse, di epoche diverse, potrebbero far pensare a un maltrattamento, mentre il bambino ha soltanto una malattia genetica. Ernesto Caffo, fondatore di Telefono Azzurro. Il maltrattamento all'infanzia in questo paese, d'altra parte, nasce come una sensibilità che per tanti motivi è in ritardo rispetto al mondo anglosassone. Ci si accorge del maltrattamento più tardi. L'abuso fisico è stato anche in questo paese un po' l'elemento che ha catalizzato l'attenzione delle persone coinvolte nelle segnalazioni più di altre. Il nostro paese non c'è ancora una banca dati sul maltrattamento, nonostante tante richieste fatte, a differenza di altri paesi che hanno statistiche e dati oggettivi. Noi abbiamo all'anno 650 casi di denunce di maltrattamento grave che sono sostanzialmente rilevate, però in realtà i casi sono molti di più. Molte volte, devo dire, la mancanza di coordinamento delle diverse agenzie ha fatto sì che molti casi siano in qualche modo anche sfuggiti. D'altra parte va anche detto che anche le altre professioni sono molte volte assenti alla segnalazione, il mondo degli insegnanti, il mondo degli operatori sociali spesse volte non si occupa di queste tematiche, se non quando il caso è tanto grave da dover in qualche modo essere preso in carico perché non ci sono alternative. Credo che ci bisogna di fare una maggiore formazione di tutti coloro che sono coinvolti su questo ambito. Dove avviene l'abuso all'infanzia? In tutte le famiglie, in particolare ovviamente le famiglie che hanno difficoltà di relazione nel proprio interno, in cui il bambino diventa oggetto di una violenza, in cui ci sono situazioni ovviamente di difficoltà culturali, oltre che marginalità legate ovviamente all'esclusione sociale e anche carenze economiche, ma soprattutto dove mancano servizi adeguati, dove ci sono reti sociali poco attente ai casi di difficoltà in cui il bambino viene a diventare vittima e con una carenza anche di strumenti di aiuto alla famiglia. La prevalenza di queste segnalazioni che noi abbiamo come Telefono Azzurro, ad esempio, è nel nord del nostro paese, però perché ci sono servizi, ci sono competenze che sono attivate su questo versante. Purtroppo invece altre realtà come il Mezzogiorno hanno tante situazioni di abuso ma che non vengono rilevate. L'autore di questi reati molte volte, per quanto riguarda la violenza fisica sui bambini, è molte volte anche la figura materna, perché più contatto con il bambino, ovviamente per le violenze invece di tipo sessuale è prevalente la figura maschile. Molte sono violenze però che coinvolgono vari membri della famiglia, anche fratelli o parenti, e devo dire che gran parte delle violenze ovviamente avviene in famiglia. Una famiglia spesso volte non adeguata ad affrontare una cura di un bambino, ed è questo uno degli aspetti che si porta a dire che occorre fare sempre più azioni di prevenzione, di intervento formativo su tutti coloro che possono intervenire. Purtroppo molte volte molti abusi restano talvolta senza poi interventi adeguati perché mancano appunto letture concrete e indagini d'altra parte nelle prime ore fatte in modo adeguato. Questo aspetto è quello più carente del nostro paese e quindi abbiamo dei dati anche inferiori ad altri paesi perché manca questa competenza. Corpi. L'infanticidio è forse il torto più precoce che si possa fare. È definito come l'uccisione da parte della madre di un bambino nato vivo, nell'immediatezza del parto. È quasi impossibile stabilire il numero di infanticidi commessi ogni anno, per il semplice fatto che molti non vengono mai scoperti, perché nascosti e distrutti tra i rifiuti. In alcune popolazioni e culture è concepito come atto non delittuoso, ma nella nostra società cosa può portare una donna a porre fine a una vita che ha portato dentro di sé per tanto tempo? Il mio primo contatto con i maltrattamenti ai bambini è stato proprio il caso di un infanticidio. Un giorno venne portata in obitorio il corpicino di un neonato che era stato trovato in una delle sedi a Milano dell'AMSA, cioè dell'azienda che si occupa della nettezza urbana, mentre si preparavano le balle di rifiuti. Uno degli operai aveva notato quello che pensava inizialmente essere una bambola all'interno di una balla, fermò tutti i processi, si avvicinò e vide che si trattava invece di un bambino. I problemi da risolvere in questi casi sono tre. Bisogna capire se il bambino è nato vivo o no, quanto tempo è sopravvissuto e di che cosa è morto. Per rispondere al nato vivo, nato morto, in genere si va a vedere i polmoni, se il cadavere è ancora ben conservato. Si dice che i polmoni di chi ha respirato galleggino e quelli di chi non ha respirato affondino. In effetti è necessario poi fare delle indagini più approfondite, ma bene o male la teoria è questa. ci mettemmo molto poco a capire comunque che la bambina aveva respirato ed era sopravvissuta un po', anche perché c'erano altri segni di sopravvivenza che erano legati alle lesioni che riportava. Facendo le lastre e approfondendo l'autopsia ci accorgiamo infatti che la bambina riportava non soltanto delle lesioni alla pelle ed era coperta di lividi, ma aveva anche delle fratture ossee. E intorno a queste fratture ossee c'erano degli ematomi piuttosto grossi che stavano ad indicare che la bambina non soltanto era sopravvissuta alla nascita, ma era sopravvissuta anche a questi traumi. Alla fine dell'autopsia avevamo concluso che bisognava fare qualche indagine di laboratorio in più, e quando arrivarono i risultati dell'indagine di laboratorio avevamo un quadro piuttosto sconcertante di fronte. La bambina era nata viva e vitale, come si dice in gergo, quindi stava bene, era a termine, per cui era un neonato in buona salute. Era stata messa in un cassonetto all'interno di un sacchetto di plastica, era stata messa in un cassonetto della spazzatura e probabilmente era sopravvissuta per un po', visto che quelle lesioni alle ossa e alla pelle che aveva erano attribuibili alle operazioni di svuotamento e di compressione dell'immondizia. L'ora esatta della nascita, quella della morte, se fosse un maschietto o una femminuccia, si saprà solo nel prossimo. Sono passate da poco le 8 quando un impiegato si accorge del sacchetto, si avvicina, vede il piccolo accanto al cordone ombelicale e la placenta. Piccolissimo, chiuso in un sacchetto di plastica. Un feto di 5-6 mesi è stato trovato questa mattina ai piedi di questo muretto. A volte capita di trovare queste persone buttate via in discariche oppure in edifici abbandonati, e qui a volte si trovano soltanto gli scheletri di questi neonati. Anche in questi casi però la scienza ci permette di dire se siamo di fronte a un aborto oppure se il neonato ha sopravvissuto per un po'. Infatti ci sono delle tecniche che vanno a studiare nei germi dentari se c'è la cosiddetta stria neonatale, che è praticamente una linea di arresto di crescita dello smalto dei denti. Pare che l'evento del parto sia talmente stressante per il bambino per cui i sistemi di formazione del dente smettano per un po' di lavorare e poi riprendono qualche ora dopo la nascita, e questo fa sì che ci siano dei difetti dentari visibili che ci permettono di dire che questa persona era nata viva. Corpi. Tra le mille autopsie che si effettuano ogni anno si trovano anche i bambini. Sono diversi dai neonati perché hanno una storia, un vissuto, degli affetti. Ma i loro corpi non sono come quelli degli adulti, usurati, sporchi, stanchi. Sono puliti, profumati, candidi. La loro immobilità sul tavolo d'acciaio è quasi inaccettabile quando si tratta di un incidente, di una malattia. È ancora più difficile pensare che a volte sia frutto di un atto volontario. Però accade. Capita per fortuna raramente di avere dei bambini in sala anatomica. Di solito sono vittime di incidenti del traffico, bambini che si trovavano in macchina dietro un motorino e che sono morti dopo un incidente. L'aria si fa sempre molto più tesa e la sala anatomica diventa molto più silenziosa quando entra un bambino, proprio perché questo non fa parte della normalità o non dovrebbe far parte della normalità. Ancora più assurdo è quando il bambino viene ucciso volontariamente, ad esempio nei casi di criminalità organizzata. In particolare, una volta ci siamo trovati 3 cadaveri in obitorio che erano state le vittime di un omicidio, di un regolamento di conti tra la malavita cinese. A sopralluogo questi 3 cadaveri erano in camera da letto, mamma e papà nel lettone matrimoniale, la bambina nella culla vicino al lettone, e sembrava che ci fosse stato un incendio accidentale. Poi all'autopsia si scoprì invece che c'erano segni di violenza, che i genitori erano stati uccisi, strangolati, mentre la bambina era stata probabilmente soffocata. Francesco Lalicata, inviato della Stampa, scrittore, esperto di storia della mafia. La tutela dei bambini è una delle invenzioni di Cosa Nostra che si è tirata fuori l'organizzazione nel tentativo di mantenere il consenso della popolazione attorno a sé, sia nei confronti dei bambini che nei confronti delle donne, che dovrebbero essere gli altri soggetti salvaguardati, non si sono mai comportati benissimo. Ci sono esempi clamorosi di bambini che sono stati uccisi soltanto per aver assistito a delle scene, a degli avvenimenti che non avrebbero dovuto vedere. Il primo che mi viene in mente è il pastorello di Corleone, fatto uccidere dal capomafia dell'epoca, che era anche il primario dell'ospedale dei Bianchi di Corleone, il dottor Michele Navarra, che era stato testimone dell'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto. Bene, questo ragazzino fu ucciso con una iniezione di aria proprio nell'ospedale dei Bianchi e la sua morte fu poi contrabbandata per una morte naturale. E questo è uno. Un altro bambino che fu ucciso per aver assistito a scene come dire delinquenziali è un altro pastore che si chiamava Paolino Riccobono, che fu ucciso nella borgata di Tommaso Natale in quanto aveva assistito alla morte di un suo congiunto, perché in quel momento si era in atto una violentissima guerra fra due famiglie. Lui apparteneva alla famiglia del Riccobono, la famiglia avversa era quella dei Cracolici. E poi c'è l'esempio più terribile del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino che è stato ucciso, sequestrato, tenuto sotto sequestro per più di 2 anni e poi ucciso, strangolato e squagliato nell'acido per convincere, per indurre il padre, Santino Di Matteo, a ritrattare tutto quello che aveva raccontato sulle stragi, perché in sostanza volevano convincerlo a non fare più il collaboratore di giustizia. Questa è la storia più atroce forse di Cosa Nostra, perché non è mai accaduto che un bambino fosse tenuto in vita per più di 2 anni e poi giustiziato come fosse un adulto. In questo senso bisogna sottolineare anche che l'uccisione del piccolo Di Matteo ha costituito per Cosa Nostra un boomerang terribile, perché questo episodio, insieme con la strage di Capaci, credo che abbia costituito l'efferatezza che è costata a Cosa Nostra gran parte del consenso che aveva. Corpi. Arrivò una chiamata da un giudice del Meridione che ci chiedeva un intervento per dei resti umani rinvenuti sepolti in un sacco in un campo. Andai giù per vedere di che cosa si trattasse e consultai la fitta documentazione che accompagnava quei resti scheletrici. La documentazione raccontava la storia di un test che aveva assistito a questo omicidio. E si trattava di una donna che si era incontrata con dei malavitosi in un bosco e aveva probabilmente portato la bambina di 2 anni con sé per protezione. Invece uccisero sia la madre che la bambina. Il test raccontava una storia raccapricciante abbastanza dettagliata. Diceva che la bambina era stata sparata mentre era in braccio la madre e che non era morta immediatamente, mentre la madre era morta subito, e pensavano fosse morta, ritornarono dopo 4-5 ore, sentirono un pianto e si accorsero che la bambina era ancora viva e quindi venne uccisa a colpi in testa. La domanda del giudice era quella proprio di capire se c'erano segni sia dei colpi d'arma da fuoco, quindi della fucilata, sia dei colpi inferti al capo. La salma arrivò a Milano e si fecero delle radiografie del sacco dentro i quali c'erano questi resti e si capì subito dalla presenza di piccoli pallini biancastri sulle lastre delle dimensioni di più o meno 6 o 7 mm che il corpicino doveva essere stato crivellato di pallini da caccia. Analizzando le ossa ci accorgemmo che la zona del piede sinistro conteneva diversi pallini e che probabilmente questa era stata la sede dove era passato il colpo che aveva ucciso la madre. Infatti il testimone raccontava di una scarpetta che era saltata via dal piede. tutto questo combaciava con quanto raccontato dal pentito, però c'era un'altra parte del racconto che era quella forse più raccapricciante. La bambina, non essendo morta subito, era stata uccisa dopo ore, prendendola e sbattendole la testa contro un muro. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della neonata. Da una prima visita necroscopica sarebbe stata esclusa la morte per cause esterne. L'esame dello scheletro rivelò due fratture al cranio che, per come erano disposte, combaciavano perfettamente con l'ipotesi di dell'urto della testa contro un muro, comunque contro una superficie piana. Quindi le nostre indagini supportarono ampiamente quello che era il racconto del pentito. Credo che tutti riescano bene o male a concepire l'omicidio, sicuramente non a condividerlo, però a comprendere come un essere umano possa uccidere un altro essere umano per diversi motivi. È molto più difficile comprendere o comunque anche immaginare l'uccisione di un bambino, di un innocente. Questo mi porta a dei ricordi abbastanza intensi che ho nell'infanzia, di quando passavo le mie estati nel Monferrato, e mi ricordo che i contadini, che erano vicini di mia nonna, di solito quando la cagnetta partoriva molti cuccioli aspettavano qualche giorno e poi prendevano questi cuccioli in eccesso e li annegavano vivi nell'acqua. E mi ricordo queste sensazioni veramente di ingiustizia e di impossibilità che avevo nel vedere queste enormi ingiustizie per me all'epoca, e in qualche modo rimangono sempre allacciati queste sensazioni di queste ingiustizie, questi crimini commessi nei confronti dei bambini e questi altri poveri innocenti, con le dovute proporzioni ovviamente, che venivano annegati nell'acqua. In effetti gli animali ogni tanto rientrano nello scenario del medico legale, ci capita non frequentemente ma ogni tanto di aiutare i colleghi veterinari che devono capire se un animale riporta delle cicatrici da ustione di sigarette, quindi se viene maltrattato, se è stato avvelenato, e quindi di dare una mano nell'interpretazione dei segni durante l'autopsia, o addirittura di trovarceli maltrattati anche sui sopralluoghi. Mi ricordo in particolare un caso sempre di criminalità organizzata in cui la vittima era stata sparata e lasciata in un bosco a decomporsi. Facemmo un sopralluogo, raccogliemmo le ossa che rimanevano e notammo che sotto il cadavere, quello che rimaneva del cadavere, c'era una piccola depressione nel terreno. Decidemmo di scavare questa depressione e trovammo la testa di un cane. Scavammo ancora di più e trovammo il resto del corpo del cane. In buona sostanza, questo cadavere era stato messo e lasciato sopra i resti di un cane che era stato ucciso e decapitato. Pulimmo i resti del cane per cercare di capire che tipo di cane fosse, per cercare di capirne di più. Era un cane di grande taglia, rimanevano soltanto le ossa, e riuscimmo a vedere che era un cane che aveva già l'artrosi, con già degli acciacchi, quindi probabilmente era anche un cane anziano. Non si riuscì a capire a chi appartenesse e il perché fosse stato decapitato. Per me questo cane, con le dovute proporzioni, rimane insieme agli infanti buttati nei cassonetti, ai bambini sparati per sbaglio per strada, ai bambini uccisi dalla mafia, nel gruppo di quegli esseri che sono da difendere, che sono innocenti, che non hanno modo di parlare o di difendersi e che purtroppo ogni tanto fanno parte del nostro lavoro. Fox Crime, canale 114 di Sky, vi ha presentato Corpi.